Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti, sono le 21 e 4 minuti primi di oggi martedì 24 gennaio del 2012. Questa è Blu Radio Veneto e siete all'interno della programmazione serale Blu Radio Sera. Una buona sera a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi conduce con me questa trasmissione, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, noi di solito amiamo ascoltare la musica dal vivo nelle serate da martedì, mercoledì e giovedì, però ogni tanto, per il classico bello della diretta, succede sempre qualcosa non confacente con quelle che sono le volontà degli artisti che vengono qui abitualmente, quindi in piena epoca di scioperi, diciamo, ne subiamo anche noi le conseguenze. Speriamo che comunque questi scioperi trovino degli accordi e si riesca a ripristinare un po' di serenità al nostro paese, e ne abbiamo veramente bisogno. Quindi dovevano essere qui con noi i Broken Chords, che arrivavano direttamente da quel di Bari, ma come sapranno i nostri ascoltatori, appunto, proprio lì al sud sono cominciati quelli che sono stati questi stati di caos con scioperi, blocchi e altre cose. Però molto dispiaciuti di non poter venire qua, comunque ci hanno garantito la loro presenza telefonica per poter parlare comunque della loro bella musica. E quindi io aprirei subito nel salutare anche chi ci sosterrà in questa trasmissione. Quindi diamo il benvenuto a Fabio Gesmundo dei Broken Chords. Buonasera Fabio. Ciao. Ciao Fabio, buonasera. Allora, come va? Tutto bene? Diciamo nel limite dell'impossibilità che ci stanno contraddistinguendo in questo momento. Certo, tutto bene. Certo, anche perché ieri sera mi ha chiamato Flavio, ho una cosa da dirti, sono preoccupatissimo, non si trovano pompe del gasolio e di benzina disponibili per fare il pieno e per garantire la nostra presenza. Ho detto vabbè, facciamo comunque una telefonica, visto che ancora i fili del telefono non sono tagliati. Noi siamo qua comunque ancora per proporre la vostra musica, la musica dei Broken Chords, che noi ha colpito particolarmente. Allora, cerchiamo di capire innanzitutto Broken Chords. Voi siete già venuti dalle nostre parti, avete già presentato qualcosa un po' di tempo fa, perché non siete nuovi, la vostra band è del 2006, però gli ascoltatori nuovi vogliono capire innanzitutto, visto che siete italianissimi, perché avete scelto un nome così british, oserei dire. Sì, diciamo che il nome è l'origine del nome è veramente vecchia. Diciamo, avevamo 16 anni quando abbiamo scelto quel nome, ed è legato comunque all'inesperienza iniziale e quindi a una rottura di corde in quantità industriale all'inizio. Sì. Poi io ho iniziato a suonare con Michelangelo, il chitarrista, che noi eravamo il primo nucleo, diciamo, del gruppo nel 2006. Che poi sentiremo anche la sua voce. Sì, è vero, benissimo. Quindi salutiamo anche Michelangelo. Allora. Lo salutiamo anche qui. Sì. Io poi non avevo mai toccato una chitarra elettrica, e quindi venivo dalla chitarra classica, quindi un approccio con delle corde completamente diverse. Mi capitava di cambiare le corde 2 o 3 volte a prova mentre suonavamo, quindi in realtà proviene da quello. In realtà poi il progetto che si può ascoltare in questo momento, e quindi in italiano, il genere che comunque in questo momento ci contraddistingue, questo progetto nasce nel 2010, volendo, forse fine 2009. Però abbiamo comunque deciso di mantenere il nome, perché comunque per noi è un significato, perché ci piaceva il fatto della corda rotta, perché in qualche modo era legato al nostro modo di vivere la musica, che è molto fisico, è molto anche istintivo, quindi in qualche modo ci contraddistingue. Quindi diciamo che le chitarre, quando vengono in vostro contatto, devono anche temervi in un certo senso, no? Chiamate Broken Chords. Comunque io odio usare strumenti di altri proprio per questo, perché non mi danno la stessa libertà. una cosa da impatto, allora, praticamente. Certo, c'è qualcuno che insegna che alla fine di ogni concerto andava poi sì, è cambiato, no? Chi era il personaggio in questione? Quello che spaccava le chitarre, sì. Pithousand. Pithousand, eccolo qua, sì, ecco. Li spaccava molto bene, però era Pithousand, sì, sì. Cosa dici? Poteva anche permetterselo. Poteva anche permetterselo, però faceva parte del personaggio, faceva parte di un gruppo come gli Who. I Broken Chords sono queste corde strappate, queste corde rotte, ma hanno un significato, oltre al significato che di cui hai parlato te adesso, hanno un significato di rottura, di allontanarsi da certi schemi, cosa dici? Sì, allontanarsi dagli schemi, vivere magari le cose istintive, quindi un po' meno ragionate, quindi qualcosa che possa essere più vero dal nostro punto di vista. Quindi siete molto live voi praticamente. Sì, noi il disco, diciamo, per noi è un mezzo per poter riuscire a poi a suonarlo tanto dal vivo, perché noi pensiamo che la prerogativa di un gruppo, sì, rock debba essere quella di suonare dal vivo. E noi stiamo piangendo ancora il fatto che non siete potuti arrivare qua, e lo faremo fino alla fine di questa trasmissione, di questa diretta. Mi farei sentire in colpa fino alla fine. No, assolutamente, non vogliamo far sentire in colpa voi, perché eravate assolutamente determinati a venire qui da noi, e anzi nel vostro sito c'era proprio anche un paio di righe dedicate anche a questo passaggio radiofonico, per noi molto importante, ricordiamo sin dall'inizio, per sapere qualcosa di più oltre a quello che verrà sviscerato in questa serata. C'è anche un sito internet, vero Fabio? Sì, il nostro sito internet è www.brokenchords.net, dove si trovano tutte le news, le date, i contatti, oppure ci siamo anche su Facebook, MySpace, Rockit, non è difficile. Bene, poi ne faremo ancora un altro po' di pubblicità, altrimenti diciamo tutto nei primi 5 minuti e poi possiamo chiudere la trasmissione. Vabbè, dai. Allora Fabio, io direi, per ascoltare la vostra musica, la vostra bella musica, direi di iniziare con ordine dalla traccia numero 1 in poi, per capire già in principio qual è la musica dei Broken Chords e poi tornare a fare dei commenti sapendo di cosa stiamo parlando. Anzi, noi lo sappiamo già, però i nostri ascoltatori pian pianino verranno instradati. Cosa ne pensi, Fabio? Come? Iniziamo? Iniziamo. Benissimo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blura, Blura Radio Sera. Sfidando nel buio un viottolo di breccia, bevendo un intruglio di nettare e feccia, chiedevo ai miei passi rumore migliore per stare in quei sassi, mio sciocco dolore. Schiacciavo più forte pietre di pietra, schiacciavo una sorte volgare e indiscreta, ma lei mi schiacciava assurda al suo amore, poi si beava lucertola al sole. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tu lo sai, è il titolo del nuovo album dei Broken Chords, questa band varese che ha la sua seconda uscita con l'etichetta Friend of Music, e l'album è targato 2011, e noi abbiamo in collegamento telefonico Fabio Gesmundo, voce e chitarra dei Broken Chords, che ci sta inoltrando su quella che è la storia dei Broken Chords e su quello che è l'attuale dei Broken Chords. Ancora buonasera Fabio e benvenuto in frequenza. Eccomi. Allora, Fabio, una chitarra molto abrasiva nel primo pezzo, quasi rumorista a mio parere, cosa ne pensi? La chitarra? Sì, molto abrasiva, molto forte, un pezzo molto di impatto, molto incisivo, molto potente, come nella caratteristica di questo nuovo disco. Sì, diciamo che abbiamo cercato di avere un suono anche più sporco, soprattutto molto chitarre. Sporco, sì. perché penso che una delle, diciamo, uno dei problemi maggiori che ha la musica italiana in questo momento è il fatto di essere troppo patinata, cioè ci sono delle registrazioni che sento di gruppi anche che conosco dal vivo e che apprezzo molto nel, diciamo, nell'esibizione live, che poi dal vivo, diciamo sul disco, sembrano quasi finti, con questi suoni patinati, super curati. In realtà secondo me si perde un po' la verità poi di quello che suoni quando hai quel tipo di trattamento del suono. Noi abbiamo cercato di essere più crudi e più diretti possibile. Mm-hmm. Adesso qualche tecnico del suono avrà già chiuso la comunicazione con noi, perché no, voglio dire, è sempre comunque una questione importante come anche apparire, anche se non è nel caso giusto, nel termine, nel senso che voi siete voi stessi, sia come dire, da disco sia in concerto, quindi sono pochi, diciamo, quelli che sono gli accorgimenti all'interno del disco, perché volete farli ascoltare così come uno li ascolterebbe dal vivo. Sì, noi diciamo che quando abbiamo iniziato il lavoro di preproduzione quest'anno, quest'estate a Genova, abbiamo iniziato a registrare qualcosa, abbiamo iniziato a registrare i primi cori, sovrincisioni di voci, oppure a trattare con effettistica le tastiere, cercare. Poi in realtà abbiamo ascoltato la preproduzione ed era qualcosa nel quale non ci riconoscevamo. Allora abbiamo deciso di rinunciare e di mettere quello che siamo nel disco, che piaccia o meno, almeno sappiamo che quello che viene fuori dalle casse di uno stereo quando si mette il nostro CD siamo noi. Sì, abbiamo parlato leggermente di elettronica, c'è sicuramente l'elettronica, soprattutto nel pezzo che abbiamo sentito per secondo, però c'è il muro di chitarre, secondo me, quello è importante, la chitarra, il suono potente, ruvido, anche aggressivo, sporco, cosa dici? Mi fa piacere sentirlo, perché sì, per la concezione che ho io di chitarra, che è molto istintivo, è molto fisico, io ho un rapporto proprio fisico con la mia chitarra, quindi sentire quell'aggressività e quell'impatto della chitarra, cioè, una delle cose migliori che puoi dirmi. Sei indexiano, insomma. Sì, tutta la vita. Indubbiamente, fino al midollo possiamo dire questo. Sì, sì. Ecco, un'altra domanda, Fabio. Abbiamo parlato di Broken Course, quindi abbiamo capito il perché di questo nome così forte, così rotto, diciamo. E anche così di rottura, se vogliamo sentirlo nel vostro tipo di musica. Perché si inizia con un punto di domanda? Sì, il punto di domanda abbiamo deciso appositamente di iniziare con Tu lo sai, col punto interrogativo, la tracklist, e di iniziare anche di nominare, cioè chiamare anche il disco con la domanda Tu lo sai. In realtà non è perché il disco debba dare delle domande oppure perché vogliamo porre degli interrogativi, ma un po' il filo conduttore del disco è quello di andare oltre i significati più semplici, oltre diciamo il modo superficiale di vivere le cose di ogni giorno, perché poi ci abituiamo a vivere quello che ci capita davanti agli occhi quotidianamente e non ci poniamo più le domande su quello che facciamo e viviamo tutto come se fosse scontato, normale, e questo crea superficialità e ignoranza, che è uno dei nei più forti in questo momento nei nostri paesi. Quindi in realtà il tema è quello della riscoperta delle domande e di cercare di vivere in maniera meno superficiale il tutto. In particolare ci siamo ascoltati due pezzi, quindi quello che apriva l'album e quello che lo seguiva, quindi Tu lo sai e poi ancora Volto al cielo. I testi e le musiche, come, visto che sono marcati proprio Broken Chords, sì, quindi tutti insieme a fare questa musicalità e a creare anche i testi. Sì, diciamo che poi ogni brano ha la sua storia, quindi magari c'è un brano con il testo di una persona e l'arrangiamento nasce tutto insieme, oppure magari nasce da un intuito di una tastiera o da un ritmo di batterie e poi ci si crea qualcosa sopra, anche a livello di tematiche che in qualche modo rispecchi quello che sentiamo nel momento in cui suoniamo quella parte strumentale. Quindi in realtà poi ogni brano ha la sua storia. L'importante però è che tutti diano il loro apporto al brano, perché sentiamo tutti in prima persona quello che suoniamo, e poi penso sia anche un po' il perché del vivere in maniera così vera, poi l'impatto anche live, cioè siamo dentro i brani tutti quanti al 100%. Poi una cosa importante, gli ascoltatori non sanno ma è giusto ribadirla, è stato presentato al MEI, che è una fiera molto significativa della musica indipendente italiana, vero? Sì, poi quest'anno giocavamo in casa, perché appunto, il MEI era a Bari, quest'anno, sì. Esattamente, a Fiore del Mare. Sì. Quindi, com'è stata questa presentazione? Cosa avete provato? Cosa avete sentito? Un palco così significativo, quel MEI, che dà sviluppo, che praticamente apre molte strade poi. In realtà il MEI è stata la vetrina per il disco. Ci siamo esibiti con uno showcase acustico in conferenza stampa, con giornalisti, con le persone, con gli addetti al settore della musica barese e non. Quindi comunque c'era una tensione, perché ci si presentava come lavoratori musicali, quindi in qualche modo con una professionalità diversa, con la che ha contraddistinto comunque il lavoro di questo disco, con il quale si vuole comunque mettere le basi per un progetto solido. Diciamo che forse a livello emotivo la presentazione del disco il 4 gennaio al Kismet è stata qualcosa di magari più emotivo e più forte, mm-hmm. perché ci siamo ritrovati a suonare in uno dei teatri più importanti di Bari. Fino a qualche anno lo vedevamo come riferimento per andare a vedere i nostri artisti magari di fama sicuramente maggiore della nostra, con percorsi più avviati. Vedere quel teatro poi pieno di gente venuta lì per ascoltare il tuo disco, il tuo concerto, è stato veramente un impatto forte. Poi con noi sul palco c'erano vari ospiti, quindi è stata veramente una serata. Bene, bene, magari ne parleremo più tardi, così svisceriamo anche i nomi degli ospiti. Allora, ricordiamo i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, che stiamo piacevolmente conversando con Fabio Gesmundo, voce e chitarra dei Broken Chords, questa band barese, con l'ultimo lavoro, targato ancora 2011, ma molto fresco, si intitola Tu lo sai, con questo bel punto di domanda appena di cui abbiamo appena capito il valore. Direi, Fabio, proseguiamo con l'ascolto di altre due tracce del CD, dando la precedenza a Noi e Me e poi ancora a Mi piace scavare, poi torniamo a commentarle insieme. Va bene, Fabio? Perfetto. Benissimo, stai con noi. Bene, allora ci ascoltiamo questi due pezzi, uno di seguito all'altro, e poi naturalmente sempre qua con Maurizio Calzavara, Flavio Bilato, Blu Radio Veneto e la programmazione serale chiamata Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. ferisci me ed io ferisco te e non ho forza nelle mani per descrivere i miei mali, perché mai we'll be right back. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati fino alla fine anche la seconda traccia delle due tracce. Siamo partiti con Noi e Me e poi ancora Mi piace scavare, con questo finale così pieno di rumori, di cose caratteristiche. Ce le facciamo spiegare, visto che ce l'abbiamo a telefono, da Fabio Gesmundo dei Broken Chords. Ancora buonasera Fabio. Allora, noi ci siamo ascoltati Noi e Me e poi ancora Mi piace scavare. Partiamo da Noi e Me. Noi e Me è un pezzo che, a giudicare dalla vostra home page su internet, è un brano che state lanciando e per il quale c'è anche un video già pronto. Sì, allora, Noi e Me è stato il primo singolo che abbiamo estratto da Tu lo sai. Sì. In realtà in questo momento siamo in promozione del secondo singolo, che è 34 km a nord. Sì. Però in effetti mi fai notare che in un page del sito avevo ancora il video di Noi e Me. E che comunque è molto carino e vi presenta, diciamo, molto molto bene come band, soprattutto tu che sei molto molto scatenato e appassionato, soprattutto mentre canti nelle note di Noi e Me. Anche se è un video un po', come dire, un po' scuro, no? Vi rappresenta nella vostra forma, in quello che è il vostro modo di fare musica. Sì, diciamo, sì, come immagine, quello che traspare dal video di Noi e Me ci rispecchia. Il secondo video è più ironico, però probabilmente quello che dà l'immagine in toto del gruppo è Noi e Me, sia per le sonorità che abbiamo ricercato, comunque, che comunque sono più intime, più sentite, un po' più nostre. Certo, allora ricordiamo ancora una volta quello che è il sito internet, e poi magari più tardi, dopo la trasmissione, i nostri ascoltatori potranno anche andare a curiosare e anche, perché no, vedere il video di Noi e Me. E quindi brokenchords.net, nella home page c'è tutto quello che vi serve per navigare con i Broken Chords. Chi vi ha aiutato, Fabio, in questa cavalcata per il secondo disco, oltre chiaramente voi come musicisti? No, è stata fondamentale la collaborazione con Friends of Music. È da un anno praticamente che lavoriamo con questa etichetta genovese, ci ha dato la possibilità di registrare prima un primo EP e poi quest'estate di essere in studio praticamente per 3 mesi, tra preproduzione e registrazione, per mettere giù il nostro album. Poi ci ha comunque dato la possibilità di lavorare con professionisti come Stefano Cabrera, che ha registrato gli archi Non mi piace scavare, che abbiamo appena sentito, oppure di lavorare con, anche dal punto di vista del video, di lavorare con Michele Lombardo, che veramente apprezziamo tanto dal punto di vista artistico, per i due videoclip per i quali abbiamo collaborato. Ora lui è in California a registrare, a fare il cameraman per alcuni film importanti, quindi siamo stati il suo ultimo lavoro in Italia e siamo contenti di questo. Quindi avete imparato da musicisti che tu hai citato, Stefano Cabrera, che ha suonato con gli After Hours, con lo stesso Cristichi, con Motel Connection, cioè gente molto paludata nel ramo, chiaramente, Fabio. Sì, Stefano Cabrera è veramente quello che deve essere un professionista. È arrivato in studio conosceva probabilmente i nostri brani meglio di quanto non li conoscessimo noi. Con una take per parte, cioè veramente un professionista incredibile, poi di un'umiltà e una disponibilità incredibile. Bene, stiamo già parlando da altri, però dobbiamo ancora sviscerare anche quelli che sono stasera mi viene questa parola, non so perché. È bella parola. tutti quelli che sono gli altri componenti dei Broken Chords, quindi stiamo parlando con Fabio. Vogliamo ricordare anche gli altri partecipanti Broken Chords? Allora, abbiamo alla chitarra Michelangelo Volpe, che sta leggendo il giornale accanto a me. Sull'evoluzione degli scioperi, per capire se possiamo partire. Perché prima o poi dovete anche partire per la tournée. Eh, ab- abbiamo delle date fine settimana, quindi stiamo trepidando, diciamo. Ma dicono che adesso la situazione è decisamente migliorata, quindi io ho ancora la macchina senza benzina sotto casa, ah, fino a quando non riesco a fare un pieno. Bene. Non mi tranquillizzo. Poi, continuando con la presentazione dei tuoi compagni, sì, di viaggio, poi alle tastiere c'è Alessandro Tempesta, al basso Luca Tomasicchio e alla batteria Giovanni Todisco. Benissimo. Benissimo, quindi siete in 5 e in 5 vi muovete in giro per l'Italia nella vostra proposta musicale. Ecco, solo una curiosità: venendo da noi, avendo una dimensione acustica più che, diciamo, rock, quella da spaccapalchi, diciamo così, ecco, come sarebbe stato? Così ci piace immaginare anche quello che poteva essere stata la serata qui da noi. Ora mi impegno per farti venire l'acquolina in bocca, per la rimpiangere. diciamo che da un annetto a questa parte che stiamo suonando di più in giro per l'Italia, quindi dobbiamo in qualche modo adattarci anche alle varie situazioni. Diciamo che abbiamo perso il conto di quanti set abbiamo, perché c'è il set elettrico per quando andiamo nei locali oppure sui palchi più grandi, o abbiamo un elettroacustico, abbiamo anche un progetto acustico che portiamo in giro con vibrafono, pianoforte, contrabbasso, percussioni e chitarre acustiche. Però di solito quando andiamo in radio, per una questione di spazi, di comodità, ci piace utilizzare dei set minimi, quindi delle percussioni particolari, anche dei toys, le chitarre acustiche. Comunque poi c'è Alessandro che si diverte con le tastiere tra xilofoni, diamoniche e altre proposte, diciamo. Quando ci si mette da Bari a venire qua, scusa. No, scusa, così, vabbè. No, casomai veniamo noi giù. Ecco. No, perfetto. Ci hai fatto giustamente venire la collina in bocca, per cui sì, ha parlato di chitarre, Fabio ha parlato di chitarre acustiche, però sì, chitarre acustiche, ma molto potenti, Fabio. Secondo me il set che era qua predisposto era una chitarra acustica, sì, ma che sembrava una chitarra elettrica praticamente. Quando siamo stati da voi? No, sì, all'epoca sì, ma il set che doveva essere qua stasera era una chitarra acustica, sì, ma poteva essere così impotente da somigliare a una chitarra elettrica. Ma non lo so, diciamo, per come suoniamo è probabile, mandavamo in overload qualche microfono. Bene. Vabbè, allora continuiamo con l'ascolto di questo lavoro dei Broken Chords che si intitola Tu lo sai, e quindi ci ascoltiamo ancora due tracce di questo disco, cominciando da 7 e poi ascoltando anche quella che si ricordava prima con il video che è uscito, no? Mi sembra di capire, sì. 34, quindi è già ufficiale, 34 chilometri a nord. Allora direi ascoltiamo questi due pezzi, uno di fila all'altro, e poi torniamo a commentarli e parlare anche del video. Perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Stare come vaga senza in te, come se sul traguardo resto qui. Troppo tardi per capire che era meglio non partire. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora buona serata ai nostri ascoltatori. Questa è sempre Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale di Blu Radio Sera. Lo so, voi eravate preparati e ben disposti per ascoltarvi un po' di musica dal vivo. Purtroppo alcuni problemi tipo scioperi, blocchi stradali e mancati rifornimenti di gasolio non sempre vengono in nostro aiuto, perché gli artisti che si vengono ad esibire qui nelle varie serate naturalmente devono fare il pieno per arrivare da noi, e non sempre, appunto, come in questa sera ci riescono. Allora, ancora una volta buonasera a Fabio Gesmundo, voce e chitarra dei Broken Chords. Eccomi. Ecco qua. Allora, ci siamo ascoltati ancora due pezzi, ci siamo ascoltati da prima Sette e poi quello che è il nuovo singolo che state lanciando, quindi 34 chilometri a nord, che è anche un video. Sì. Allora, 34 km a nord, come mai questo titolo così che determina una distanza? Diciamo che 34 km a nord diciamo indica una distanza minima. Noi siamo abituati ad entrare nella nostra macchina, nel nostro mezzo e pensare di poter percorrere poi tutte le distanze possibili, di poter raggiungere tutti gli obiettivi, diciamo le destinazioni che ci proponiamo. In realtà poi ci sono delle distanze minime, dei posti molto più vicini dove abbiamo difficoltà a tornare perché magari sono legati a un'esperienza, a un ricordo o comunque a qualcosa di significativo per noi. Quindi 34 km a nord sta proprio a descrivere la difficoltà di ritornare in un luogo che ha avuto un significato. Anche magari tornare davanti casa dell'ex fidanzata può portare un peso, piuttosto che anche ripassare davanti a una vecchia fonte di lavoro o di altre emozioni, perché non si sa con cosa si tornerà indietro. Sì, probabilmente anche la consapevolezza di non poter più ritrovare quello che rendeva speciale poi quel luogo. E dobbiamo sottolineare una cosa, Fabio, secondo me questo è un pezzo ricco di stop and go, si ferma più di una volta e riprende volutamente, secondo me, questa struttura musicale. Questo è il pezzo probabilmente più ritmico. Esattamente, più ritmico. Il gioco della batteria è notevole. Sì, diciamo che cioè, strumentalmente si fonda soprattutto sull'incrocio tra batteria e basso. Il basso che sta sempre un attimo indietro rispetto alla batteria, quindi si incrocia questa, la parte ritmica. Quindi ricordiamo la parte ritmica: c'è Luca Tomasicchio e poi ancora Giovanni Todisco, rispettivamente basso e batteria dei Broken Course. Facciamo parlare anche il tuo collega, che penso abbia finito di leggere il giornale. Sì, si è finito di leggere il giornale. Volentieri due parole anche con Michelangelo Volpe. Marco, ve lo passo subito. Ecco qua, Michelangelo Volpe, che è la chitarra dei, ciao a tutti, dei Broken Course. Buonasera Michelangelo, benvenuto anche a te in frequenza. Ciao a tutti. Allora, hai finito di leggere il giornale, quindi ti sei reso conto un po' che la situazione probabilmente sta migliorando e quindi tra poco si potrà riprendere la macchina, si potrà diciamo continuare, seppur spezzettata, quella che era la tournée che si doveva fare e che vedeva come prima tappa proprio la nostra radio. Sì, ci speriamo. Purtroppo è una situazione che è in assoluta evoluzione, quindi sì, ci affidiamo a quello che decideranno gli scioperanti. Ecco, benissimo. Non possiamo fare niente, certo, purtroppo. Tu hai parlato giustamente di evoluzione. I Broken Course sono nati nel 2006, dalla storia che noi sappiamo, e come si sono evoluti. Vorremmo capire anche da te il perché di questa trasformazione da il Brit Pop cantato proprio all'inglese e poi questo andare verso i testi e quindi il cantato in italiano. Beh, il progetto, come hai ben ricordato, inizia come un progetto Brit Pop. Tuttavia è stata un'evoluzione che ha seguito anche una evoluzione a livello di formazione dei Broken Course, in quanto i Broken Course si sono formati nel tempo con l'arrivo di Luca al basso, successivamente di Alessandro alle tastiere ed infine poi nel 2009 di Giovanni alla batteria. L'idea di approcciarci all'italiano ci è venuta anche grazie ad un nostro amico che ci ha proposto un suo testo. Lui scrive per proprio conto testi, poesie, e lui ci aveva proposto, ecco, di musicare un suo testo. L'idea ci è piaciuta, l'abbiamo messa in musica e abbiamo deciso di provare, ecco, anche scrivendo noi stessi i brani, fino insomma ad avere quello che è il progetto attuale Broken Course, un vero e proprio rock in italiano, un rock indipendente, e noi ci teniamo assolutamente a sottolinearlo, e soprattutto poi con tutte le influenze che ognuno di noi apporta, ecco. ecco, al progetto. Ognuno di noi ha degli ascolti assolutamente variegati rispetto all'altro. Fabio e Michelangelo, avete spinto però il progetto verso dei terreni un po' più cupi rispetto al progetto iniziale, li avete proprio spinti, volutamente spinti. Sì, sì, assolutamente, perché comunque, ecco, ci rifacciamo, e soprattutto nell'ultimo nell'album, tu lo sai, sì, si sente l'influenza dell'indie inglese, sì, sì, soprattutto molto. Di derivazione, ad esempio, Placebo, sì, e quindi ecco queste atmosfere cupe rappresentate benissimo poi dal video di Noi e Me, o influenze quali Kings of Leon, sì, a livello proprio di vero e proprio sound, a livello di chitarre, di batteria, di basso. In più c'è anche la tastiera, l'apporto della tastiera, che è fondamentale. Sì, perché sì, cioè praticamente crea degli scenari diversi, l'uso della tastiera è importante per creare determinate atmosfere, c'è poco da fare. Sì, sì, sì, infatti. Riesce anche ad essere ad amalgamare poi il tutto, e quindi a riuscire a dare una spinta in più al brano. Ma l'idea della tastiera è stata tua, di Fabio, e tua di mettere una tastiera nel vostro sound, una tastiera di questo peso soprattutto? È stata un'idea sinceramente comune tra di tutti quanti alla fine, perché nel primo nucleo, poi quello che vedeva me, Fabio e Luca, c'era l'idea comunque di inserire anche delle tastiere, di provare ad inserire un altro elemento. È capitato così in maniera perfetta Alessandro, sì, che si è trovato subito in sintonia con quella che era un po' l'idea del nostro sound, un sound abbastanza ricercato, che si allontanasse un po', ecco, dalla scena tipica rock italiana, che ha insomma un sound abbastanza standard. Cioè, infatti l'idea iniziale era quella di avere un sound anche abbastanza particolare, che potesse essere riconoscibile. Infatti ci siamo riusciti poi soprattutto con l'album Tu lo sai. Bene, dove insomma, sì, potete ascoltare quelli che sono davvero i Broken Chords, dalla ricerca del sound, del suono raffinato, vedi Noi e Me, sì, sì, sì, passando sì, poi ad un rock più spinto e abbastanza indipendente come set. Sì, certo, che abbiamo ascoltato prima. Allora, Tu lo sai è un album formato da 12 pezzi, loro sono i Broken Chords, una band che arriva direttamente da Bari. Allora, Michelangelo, noi ci ascoltiamo ancora due pezzi, così per farli ascoltare ai nostri ascoltatori, poi torneremo con altri commenti riguardo alla vostra musica e ancora quattro chiacchiere. Siamo qui per voi e per tutti coloro che ci ascoltano, quindi benissimo. Allora, siamo in linea. A tra poco. A tra poco. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Per chi cerca sempre nuova evasione, per chi sogna mentre vige la ragione, per chi vive la notte tra risa e ceffoni, per chi svuota la botte con quei quattro ubriaconi. Per chi non tradisce il suo eterno viaggiare, per chi si smarrisce per terra e per mare, per chi asciuga la fronte e riprende il cammino, per chi nell'orizzonte cerca il proprio destino. fatica, il coraggio e il dolore, gli dia la gioia antica di trovarlo stupore. Canto per costoro al vento e alla luna, io che come loro ignoro la sfortuna, e canto l'allegria di quei poveri dannati, e rido della gelosia di chi li è marginati. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in frequenza insieme per commentare ed ascoltare questo ultimo lavoro di Broken Chords, questa band barese che avrebbe dovuto essere con noi in questa serata, purtroppo non per loro impegni ma per disgrazie sociali, li chiamiamo anche, e succede anche questo, e nella speranza di rivederli presto, intanto ci abbiamo collegati a telefono. Ancora buonasera a Fabio e buonasera a Michelangelo, due dei Broken Chords. Allora, tu lo sai, ci siamo ascoltati, questo è il titolo del nuovo lavoro, e ci siamo ascoltati con ordine Al vento e alla luna e Ad Amsterdam. Allora, Michelangelo, cosa ci racconti di questi due pezzi? Allora, per quanto riguarda Al vento e alla luna, è il brano che rappresenta il progetto acustico dei Broken Chords, un progetto che si presenta ancora più variegato nella sua forma acustica, in quanto sono presenti glockenspiel e contrabbasso. E soprattutto per quanto riguarda poi il CD, abbiamo avuto le importanti collaborazioni di Stefano Cabrera e di Andrea Celeste per quanto riguarda la parte vocale. Per quanto riguarda invece Amsterdam, parliamo di un brano che rappresenta quello che può significare un viaggio nella vita di ciascuno di noi. E praticamente si ricollega a tutto quel fil rouge che rappresenta, ecco, il senso di tutto il CD, il porsi domande, la ricerca, la curiosità. E Amsterdam, ecco, nella sua veste, nella sua complessità, rappresenta il viaggio, la curiosità che spinge chiunque di noi a saperne di più. E allo stesso tempo poi rappresenta un po' quello che è l'essenza dei Broken. Farsi tanti chilometri, tanta fatica, tanto sudore, però dare sempre il massimo e far conoscere quella che è la propria musica a tutti coloro che, insomma, troviamo nel corso delle nostre serate, a chiunque, insomma, ci ascolti, ecco. Certo. Allora, Michelangelo, diciamo ancora una volta come si fa ad entrare in possesso del vostro CD. Allora, per quanto riguarda il CD, potete trovarlo in tutti gli store digitali e a livello di store fisici potrete trovare il CD, tu lo sai, in Feltrinelli, Fnac e Mondadori. Oppure, se avremo la possibilità di essere anche dalle vostre parti, potrete direttamente chiedercelo durante le nostre serate. E quella sarebbe la cosa migliore. Migliore, autografato anche Michelangelo. Tra l'altro, sì. È da poco attivo anche il servizio con il quale potrete acquistare direttamente il nostro CD dal nostro sito www.brokencords.net. Certo, Al vento e alla luna, Michelangelo, è il pezzo acustico, proprio acustico nel senso più ampio del termine. Il pezzo successivo era un acustico un po' tirato, una ballad un po' più mossa, più movimentata, che io e Flavio prima parlavamo a microfono spento, che toccava certi punti relativi ai Placebo. Cosa dici, Michelangelo? In alcuni momenti. Qualche riferimento velato, molto lontano, ma c'era. Sì, ma perché comunque, ecco, si è lavorato assieme a Giovanni Cirigliano, che è il nostro produttore, in una veste, ecco, più internazionale, cioè cercare di fare un lavoro che si avvicinasse, ecco, a quello che è il sound internazionale. Ma allo stesso tempo poi ci siamo ritrovati ad avere delle sonorità che rispecchiano quelli che sono i nostri ascolti. Tu hai ricordato i Placebo, precedentemente avevamo parlato di Kings of Leon. Allo stesso tempo poi rappresentano i nostri brani una unione fra sound internazionale e tradizione cantautorale italiana. Quindi un po' un anticipo di quella che era la domanda adesso in questa fase della trasmissione, ovvero quelle che sono state, diciamo, le vostre provenienze musicali, nel senso di gusti musicali. Quindi già abbiamo cominciato a citare qualche gruppo che immagino sia ben ascoltato dalle corde dei Broken Chords. Sì, sì, sì, sì. Quindi per continuare a citare altri nomi, Michelangelo. A livello di sound, ecco, sì, abbiamo parlato di Placebo, Kings of Leon. A livello poi di testi, ecco, di vero e proprio aspetto cantautorale del CD, possiamo ricordare Bruno Lauzi, Luigi Tenco, che sono due fra i cantautori italiani più amati dal nostro frontman Fabio. Sì, diciamo che è la base proprio, ma la base nel senso con la B maiuscola di quello che è il cantautorato italiano. Sì, sì, ma anche perché comunque, ecco, siamo in Italia, dobbiamo cercare di far riemergere un po' quella che è la vera tradizione italiana, perché comunque in giro non ascoltiamo grandissima musica a livello indipendente, però ci sono tante personalità che cominciano a venire fuori, lo fanno nella maniera più eccellente possibile. Uno tra questi ad esempio è Dente. Dente sta facendo un grosso successo, che l'indipendente si è un po' allargato, da indipendente è diventato, non dico nazionale, ma quasi musicista, che ha fatto una grande gavetta come voi, e poi dopo aver fatto tanti concerti si è fatto sentire alla grande, secondo me. Sì, penso che insomma chi merita oggi comunque riesca a venir fuori con tanta fatica, con tanto sudore, però come riesca a venir fuori. Certo, come tu giustamente hai detto, tanta fatica, tanto sudore, tanti chilometri e tanto suonare, quello è importante, fondamentale. Assolutamente, assolutamente, perché oggi per quanto riguarda Broken Chords, quello che ci preme di più è suonare, far conoscere la nostra musica a quanta più gente possibile, e allo stesso tempo, ecco, far apprezzare quello che è tutto il progetto in toto, non solo per quanto riguarda la parte live del gruppo, ma anche tutta la struttura che poi c'è dietro, in questo caso ricorderei proprio la Friends of Music con il suo presidente Giovanni Cirigliano. Certo, e allora Michelangelo, proseguiamo con l'ascolto di Tu lo sai, ancora due pezzi, quindi di turno Occhi negli occhi e poi ancora Resta. Allora ci sentiamo tra poco, scusa Michelangelo, per commentarlo insieme a te, insieme a Fabio, e per ormai abbiamo fatto conoscere, diciamo, gran parte del lavoro, abbiamo ancora un po' di minuti per stare insieme e quindi capire ancora di più di questo lavoro. Tu lo sai, si intitola. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Prende, ti conduce a te. Blu Radio Veneto. In questo viaggio eterno, solo incontro il mondo, tu vieni come inverno e scavi nel profondo. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato altri due pezzi di Broken Chords e vorrei dire in questo caso a Fabio, buonasera ancora Fabio. Eccomi. Tu lo sai che ci è piaciuto molto questo disco? Mi fa piacere. Benissimo, no, perché veramente ha delle sonorità molto molto precise, molto dense, come si ricordava all'inizio, trasmissione delle sonorità forse, se vogliamo vedere, da una parte un po' grezze, però permettermi di dire che è quel grezzo giusto che va e che entra, no? In quel momento, senza, come si diceva prima, troppi accorgimenti che possono portare a un po' di troppa lucidatura, e come si dimostrava prima, in questo caso i Broken Chords erano proprio contrari a questo lucidare, patinare il disco. Allora, ricordiamo Broken Chords, un album che, per chi lo sta cercando, è una copertina rossa, intanto ricordiamo, con la ripetizione di tu lo sai in diversi modi, poi ancora la le vostre, i vostri bei volti all'interno della copertina con le mani sulla bocca, come per dire sì, tu lo sai, no, noi lo sappiamo, però non ve lo diciamo. È questa la minaccia che date in questa copertina? No, diciamo che non è una minaccia. Prima di tutto, quell'illustrazione è nata dal fatto che, analizzando i nostri sì. testi quest'estate, ci siamo resi conto che la parola muto torna spesso. Poi in realtà era anche un'indicazione del fatto che non sempre si può dare una risposta, o non sempre bisogna parlare, o quindi bisogna porsi le domande, certo. e non dare subito le risposte, perché poi chi ha tutte le risposte si pone poche domande e sa meno di quello che è zitto un attimo a ragionarci su. Esattamente il contrario di quello che è successo in questa trasmissione, allora, Fabio. Nel Come senso che no? Noi abbiamo fatto un sacco di domande, abbiamo ricevuto un bel po' di risposte per capire quello che è l'interno di Tu lo sai, per invitare anche i nostri ascoltatori di far proprio questo CD. Fabio, un disco suonato con passione. La vostra filosofia combacia perfettamente con quello che alla fine diciamo noi, che è il fatto di non ascoltare o di non superficialmente anche della musica, ma cercare di capire le ragioni di un suono, di un testo, di un'espressione. Un disco suonato con passione, un disco suonato con la S maiuscola, questo è importante secondo me. Ti ringrazio. Bene, allora ricordiamo Broken Chords con questo Tu lo sai, sono 12 pezzi e noi abbiamo avuto la fortuna durante la trasmissione, oltre che parlare in maniera estesa sia con Fabio Gesmundo che con Michelangelo Volpe, anche di ascoltare finora ben 10 pezzi, però abbiamo ancora il tempo per ascoltare almeno l'undicesimo. Un undicesimo che ha un titolo davvero particolare, e vorrei capire da te, Fabio, in questo caso stiamo parlando di pastiglia 5-8. Sì. È una pastiglia da freni, questa. Una pastiglia? Da freni, no? Diciamo di sì. Diciamo che è stato frainteso volentieri questo brano. Sì. Ci teniamo a specificare che non facciamo uso di droghe, ma diciamo che quello che pastiglia è stato probabilmente l'ultimo brano ad essere registrato. Avevamo sì. un'idea di un testo e di una linea vocale, però non eravamo mai riusciti ad arrivare a un punto dal punto di vista dell'arrangiamento. Poi quest'estate alle 4 di notte è uscito fuori l'arrangiamento e l'abbiamo registrato lì in presa diretta, ed è abbastanza particolare come arrangiamento. Ci sono delle sonorità un attimo più evanescenti. Bene. Quindi un attimo abbiamo ragionato sul fatto che quell'ultimo brano da registrare, quindi quell'ultima fatica, perché comunque registrare un disco è un lavoro non indifferente, fosse come l'ultima pastiglia da prendere, da buttare giù per curare il nostro lavoro. Quindi 5-8 è il 5 agosto, che è stato quindi l'ultimo giorno di riprese del disco, ecco. Quindi ha un significato diverso. Ha un significato diverso che non una misura delle pastiglie per auto, di quelle che si mettono nei treni. Benissimo, allora che dire, raccomandiamo a tutti i nostri ascoltatori di entrare in possesso di questo Tu lo sai. Ricordiamo che questa trasmissione è stata anche registrata, per cui se qualcuno si è perso qualche passo della nostra intervista può naturalmente entrare in possesso di questa registrazione sonora, e ricordiamo la nostra pagina internet, che è bluradioveneto.it. Ricordiamo anche il nostro direttore artistico, che grazie che a lui salutiamo, stasera, certo. Che cura tutte le trasmissioni rock, tutti i live, e stasera ha curato anche l'intervista ai Broken Chords. Benissimo, ricordavo appunto che il nostro sito internet è www.bluradioveneto.it, nella pagina riservata ai Broken Chords con la presentazione di questo Tu lo sai avrà anche il link per accedere appunto a questa registrazione sonora. Benissimo, allora Fabio, Michelangelo, è stato un vero piacere parlare con voi per conoscere quella che è la vostra musica, e vi strappo già un appuntamento. Sì. Per quando? Vabbè, lo decideremo. Guarda, in seguito. Ora veramente eravamo sì. veramente entusiasti di venire da voi. Lo so, ho sentito. Appena siamo su, noi sicuramente abbiamo la parte più intensa del nostro tour tra la seconda settimana di febbraio e metà marzo, quindi sicuramente se voi siete disponibili faremo un salto da voi in quel periodo. Vedrai Fabio che il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, sicuramente troverà uno spazio per voi in questa nostra trasmissione, quindi non ci sono problemi assolutamente. Benissimo, va bene. Allora ancora grazie Fabio, grazie Michelangelo, salutateci anche il resto della band, quindi Alessandro Tempesta, Luca Tomasicchio e poi ancora Giovanni Todisco. E salutateci Bari. Va bene. Ve la salutiamo. Allora ci lasciamo appunto con questo pezzo. Allora noi salutiamo, facciamo così Fabio. Noi adesso salutiamo, tu presenti il pezzo e fai un saluto particolare ai nostri ascoltatori. Allora intanto diciamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara il solito grande e caloroso ciao, vi lasciamo ancora il microfono per qualche secondo aperto in favore dei Broken Course e poi ci ascolteremo la loro ultima canzone. Allora l'ultimo brano che ascoltiamo è Pastiglia 58, noi siamo i Broken Course, è stato un onore passare del tempo in una radio così attenta, interessante, e da noi va il saluto a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.